Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. C'è l'altra faccia della medaglia, cioè il dato davvero preoccupante dei troppi bravi nostri laureati che per necessità lasciano ogni anno il nostro paese non trovando lavoro qui e che nonostante recenti provvidenze di legge difficilmente poi rientrano. Tocchiamo così il duplice problema che ci preme guardando ai giovani. Una scuola sempre migliore e possibilità di occupazione effettiva e qualificata in Italia per quanti abbiano acquisito una buona formazione. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. In apertura il nuovo pressante allarme del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla fuga dei giovani laureati all'estero, che riporta il tema in cima all'agenda di un paese in crisi. È una puntata interamente focalizzata sui giovani manager, quella che vi offriamo oggi. La domanda della settimana è: esiste in Italia un management giovane, innovativo, dinamico, dall'apertura internazionale e capace di contribuire al fare impresa con una visione globale? Oppure è ancora troppo legato a logiche aliene al merito, quali raccomandazione, gerarchia e nepotismo? Insomma, ci chiederemo: abbiamo una classe dirigente all'altezza del difficile momento che viviamo? E se non esiste qui, la potremmo almeno reimportare dall'estero? Penso che ci siano un sacco di colleghi che sarebbero disposti a mettersi in gioco ed accettare la sfida di ritornare nel bel paese per aiutare a cambiare le cose. Gianluca Pettiti, 33 anni, è amministratore delegato per l'America Latina della multinazionale Life Technologies, vive in Brasile. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. L'allarme del presidente Napolitano sulla fuga dei giovani laureati dall'Italia, citato in apertura, trova conferma nei dati. Il bel paese è fanalino di coda in Europa per i laureati con un'occupazione. Nel nostro paese ha un impiego solo il 76,6% dei dottori, contro una media comunitaria all'82,3%, lo afferma Eurostat. E secondo dati OCSE, citati dal Financial Times, il numero di laureati italiani che vivono all'estero è, pensate, 4 volte superiore a quello dei tedeschi, 3 volte superiore a quello degli inglesi e il doppio dei francesi. Nei prossimi 20 anni il mezzogiorno perderà quasi un giovane su 4, gli under 30 al sud caleranno di oltre 2 milioni nel 2050 con una crescita esponenziale degli over 75 e il rischio tsunami demografico registrato dalla Svimez. Tra le cause pure l'emigrazione. Al sud lavora solo un giovane su 3. Pensate che un aumento del 10% della quota dei lavoratori laureati porterebbe a un incremento della produttività pari allo 0,7%, il direttore Svimez Riccardo Padovani. Cala l'occupazione e diminuisce il tasso delle possibilità di ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani. Il tasso di occupazione della classe più giovane tra 15 e 34 anni al sud è del 30%, 20 punti più basso che nel resto del paese. Sempre secondo la Svimez, nell'ultima decade hanno lasciato il mezzogiorno con destinazione il centro-nord ben 583.000 abitanti, prime per le partenze la Campania e Napoli, i migranti sono soprattutto uomini, laureati sono il 21%. I giovani italiani continuano a guardare all'estero. Secondo Data Giovani, il 30% degli under 35 è pronto ad emigrare per cercare fortuna. I giovani temono soprattutto di non potersi realizzare professionalmente. Fuori dall'Italia vedono maggiori opportunità di lavoro, più spazio per le nuove generazioni e una qualità della vita migliore. Secondo un sondaggio SVG, il 50% degli intervistati pensa sia necessario per i giovani andare all'estero. Analoga iniziativa del portale Tesi Online, su un totale di 10.000 under 35 intervistati, il 57% dei laureati ha dichiarato di vedersi all'estero tra 5 anni, idem per i non laureati. Al 56%. Siamo stanchi della retorica sulla questione giovanile. Garantire oggi uno stipendio e una pensione dignitosa ai giovani vuol dire investire sul paese. Fra alcuni anni rischieremo un conflitto sociale molto elevato se non si trova una soluzione ora. Così Antonio De Napoli, portavoce del Forum Nazionale dei Giovani. È stato premiato al 30° premio MASI per la civiltà veneta il matematico e informatico Massimo Marchiori, inventore dell'algoritmo di Google. Marchiori è ora docente di sicurezza e tecnologia web all'Università di Padova, dopo un passato all'MIT di Boston. Gli abbiamo chiesto: ne è valsa la pena tornare in Italia? Sì, ne è valsa la pena. Anzitutto bisogna dire che io ho continuato a fare lo stesso lavoro che facevo prima. L'unica cosa a cui ho rinunciato sono stati i soldi, ma per me era molto più importante tornare qui e devo dire che genero molto più entusiasmo qui, come esempio per i giovani, piuttosto che quello che avrei fatto negli Stati Uniti. Dal punto di vista scientifico è la stessa cosa, dal punto di vista delle opportunità e del morale è tutt'altra cosa. C'è quindi la possibilità per chi va all'estero poi in qualche modo di tornare e cominciare anche a contribuire a cambiare il paese in meglio? C'è la possibilità soprattutto nel mondo delle tecnologie. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: Un funzionario amministrativo e finanziario all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, scadenza per i CV 14 ottobre, info su who.int/employment. Una Communications Officer all'Organizzazione dei Consumatori Europei, sede di Bruxelles, scadenza per i CV 5 ottobre, email a apply@beuc.eu. E infine un ricercatore esperto per il network Mini Lubes dell'Università di Cardiff, scadenza per i CV 6 ottobre, email a vacancies@cardiff.ac.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Sud America. Prendiamo la rotta del Brasile. Nome: Gianluca. Cognome: Pettiti. Età: 33 anni. Città di origine: San Michele Mondovì. Studi: laurea in ingegneria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: la prima volta nel 2006, l'ultima nel 2010. Per andare dove? Nel 2006 in Olanda, nel 2010 in Brasile. Perché? Per motivi professionali. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono amministratore delegato America Latina per la Life Technologies. Dove? A San Paolo. Tornerai? Sicuramente sì. Girl from Ipanema, uno dei pezzi simbolo della bossa nova, avrebbe da solo un biglietto di andata per il Brasile, dove vogliamo per incontrare Gianluca Pettiti. Una storia, a mio parere, paradigmatica di come un giovane talento, se messo nelle condizioni di esprimersi al meglio, può produrre grandi risultati. Penso sia fondamentale saper ascoltare e non assumere di sapere, mettendosi in gioco con un modello di leadership moderno, inclusivo e molto più efficace dei vecchi modelli direttivi. Il vecchio modello di leadership è basato sul fucile, è ormai superato, ha lasciato spazio a strutture direttive più efficienti, alle quali le nostre imprese dovrebbero iniziare a guardare in modo più proattivo. Gianluca, a giovanitalenti@radio24.it, è dipinto la vecchia Italia ormai sulla via del tramonto, con capi che confondono l'autoritarismo con l'autorevolezza. Anche questo, ti chiedo, uccide sul nascere i migliori talenti obbligandoli all'espatrio? Senza dubbio, è un incentivo all'espatrio che limita la crescita e genera danni a lungo termine. Occorre guidare un cambiamento dell'ecosistema delle imprese. E ci torneremo. Dopo il diploma ti iscrivi al Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria gestionale. Perché questa scelta? Volendo fare CEO mi sembrava la facoltà perfetta. La realtà Capisco. È che da sempre mi appassionava il mondo della finanza e la possibilità di coniugare l'aspetto analitico e tecnico con quello gestionale era molto attraente. E gli anni universitari si rivelano importantissimi. Riesci persino a fondare una tua società per diffondere prodotti piemontesi online. Prima ancora di laurearti, però, entri nella multinazionale General Electric per uno stage. Allora, come ci arrivi? C'è una frase che mi ha colpito. C'è scritto a giovanitalenti@radio24.it: ho investito nella mia formazione senza compromessi. Sì, arrivai in General Electric all'ultimo anno di università con uno stage ed un progetto finalizzato alla stesura della tesi. Lavoravo 12 ore al giorno, guadagnavo 0 euro, ma avevo l'opportunità di vivere e respirare l'ambiente GE. Quando dico che ho investito nella mia formazione senza compromessi, intendo dire che i primi a dover credere ed investire in noi stessi siamo noi. Se questo non avviene, è difficile pretendere che lo facciano altri. Torniamo per un attimo all'esperienza universitaria. Nel 2004 ti laurei a pieni voti, allora qual è un po' il giudizio finale sulla tua formazione in Ateneo? Il giudizio sul Politecnico di Torino è eccellente e posso affermare che negli anni il bagaglio acquisito si è dimostrato un differenziale importante nella mia vita professionale. E mi sento di estendere il discorso alla formazione universitaria italiana in genere. I candidati italiani arrivano in azienda con una formazione normalmente superiore agli altri paesi europei e anche non europei. Affronti 2 anni di startup come direttore finanziario, poco più che ventenne. Quanto è stata importante per te la formazione in azienda? Direi che la formazione è stata fondamentale tanto quanto gli investimenti che le aziende come General Electric piuttosto che Life Technologies hanno fatto per la mia crescita professionale. Sicuramente poco più che ventenne assumere la responsabilità finanziaria di una startup in una multinazionale come GE è stata un'esperienza incredibile. Alla fine però capisci che è ora di cambiare aria, ti metti sul mercato, ricevi 3 proposte, una banca italiana, un fondo di private equity italiano e la multinazionale Life Technologies, all'epoca Applied Biosystems. Scegli ovviamente la terza opzione perché, qui appunto ti chiedo una riflessione più generale, è meglio per un giovane lavorare all'estero per una multinazionale che non in Italia per un'azienda tricolore. Ti cito 3 dati molto oggettivi. Nelle imprese americane il 40% dei dirigenti sono under 40, contro circa un 7% in Italia. Gli investimenti in innovazione, formazione e sviluppo all'estero sono la normalità. Pensiamo che le imprese americane nel 2008 investivano dall'1,5% al 2% del costo del lavoro in formazione. Le imprese italiane nello stesso anno lo 0,2%. In ultimo, ma non per ultimo, le multinazionali americane hanno una struttura di incentivi e retribuzioni molto più attraente, legata al merito e non all'anzianità. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. A portarmi via ha contribuito anche il network professionale, un network sano di professionisti che, conoscendo il tuo potenziale, spingono per averti nel loro team, conoscendo le tue abilità e il contributo che puoi apportare, ben diverso dalle raccomandazioni che spesso infettano il sistema di lavoro italiano. Goodbye Malinconia, come canta Caparezza. Voli dunque in Olanda e con quale ruolo? Volo in Olanda assumendo la responsabilità per la pianificazione finanziaria e controllo per l'Europa, il Middle East e l'Africa. Brevissima parentesi, di cosa si occupa Life Technologies? La Life Technologies è un'impresa leader nel mercato delle biotecnologie e life science. Creiamo tecnologia utilizzata in laboratori di ricerca scientifica, identificazione umana, diagnostica ed ingegneria genetica. Durissima si rivela l'esperienza olandese, ma riassumi tutto con una frase: o si impara a nuotare o non si sopravvive. Questa è una frase ricorrente in voi giovani espatriati. Ci spieghi quanto è più dura per voi rispetto a chi resta qui? E così togliamo una volta per tutte anche gli argomenti a chi vi definisce giramondo un po' snob. Fu un'esperienza molto dura e, come in qualsiasi esperienza da expatriate, lo sforzo iniziale è stato notevole. Richiede forti doti di integrazione con cultura volta agli antipodi. E tutto questo prima di pensare al lavoro stesso, sapendo che o arrivano i risultati o sei fuori. Per quanto riguarda il giramondo snob, vivendo questo ambiente ti confermo che conosco molti giramondo, qualche snob, ma soprattutto molte persone e famiglie veramente speciali. La differenza tra imprese latine e americane sta nella capacità di assumersi rischi calcolati con l'obiettivo di far crescere i propri leaders. Le grandi società italiane hanno spesso vissuto momenti drammatici, ingessate da un'assenza totale di meritocrazia per una semplice ragione. Non essendo il talento una variabile chiave nella selezione della dirigenza, viene avvilito e snaturato a favore di caratteristiche meno nobili. Allora, Gianluca, esiste una via d'uscita per mandare in ospizio questa classe dirigente vecchia e familistica, ormai anacronistica? E quale sarà il prezzo da pagare se invece sopravvive? Vive. Sai, a volte mi piace pensare alle imprese come a squadre di calcio. Immagina cosa succederebbe in Italia se un allenatore facesse la formazione favorendo logiche personali a logiche di talento e tattica. I tifosi farebbero una rivoluzione. Serie B. Serie B, esatto. O C. Chi paga il biglietto nelle aziende in realtà non sono i tifosi ma sono gli investitori, con la differenza che manca la fede calcistica a tenerle legate alle imprese, soprattutto se le imprese diventano perdenti. Nell'agosto del 2008, dopo la trasformazione che porta alla nascita di Life Technologies, sopravvivi alla selezione naturale tipica di questi processi, divenendo direttore finanza e pianificazione. Nel frattempo, nel corso di una riunione, ti pongono la fatidica domanda: quali ambizioni hai? Tu cosa rispondi in due parole? Siccome il mio obiettivo era diventare amministratore delegato, mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza nell'area commerciale ed operativa. E due mesi dopo che succede? E due mesi dopo, nel corso di un meeting a San Diego, mi fu offerta l'opportunità di diventare amministratore delegato del nostro business in America Latina. A 31 anni ti scopri amministratore delegato di una società di 250 dipendenti che opera in 24 paesi con un fatturato di 150 milioni l'anno. Avresti anche solo potuto sognarlo in Italia? Guarda, sono un sognatore, quindi ti rispondo di averlo sognato parecchie volte, anche quando ero in Italia. La realtà è stata diversa ed è difficile valutare se avrei avuto gli stessi successi lavorativi in Italia e soprattutto così rapidamente. Quale messaggio lanci alle aziende italiane? Su quale tipo di management devono rischiare e investire se vogliono sopravvivere alla globalizzazione? Il mio suggerimento è di affidarsi ad un management che possa innovare il modo di concepire l'impresa, la gestione del personale e soprattutto la leadership. È triste che imprese affascinanti come quelle italiane non affascinino più i propri dipendenti. E questo, secondo me, è un serio problema di leadership. Gianluca, secondo te esiste in questa nostra Italia diffusa all'estero, di cui fai parte, una nuova classe dirigente giovane, made in Italy, pronta a modernizzare un paese ormai purtroppo sempre più sull'orlo del baratro? Senza dubbio esiste, penso che ci siano un sacco di colleghi che sarebbero disposti a mettersi in gioco ed accettare la sfida di ritornare nel bel paese per aiutare a cambiare le cose. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Vedo un'Italia sofferente. Quello che mi rattrista di più è non vedere la reazione di un paese che, secondo me, ha tutte le potenzialità per reagire, ma la mentalità sbagliata. Forse manca quella mentalità vincente che fa di un gruppo di persone una grande nazione. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Gianluca Pettiti, 33enne amministratore delegato per l'America Latina della multinazionale Life Technologies. Gianluca è giunto a San Paolo, Brasile, dopo una laurea in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, cui ha fatto seguito un ingresso nella multinazionale General Electric. Nel 2006 il passaggio a un'altra multinazionale, Life Technologies, scartando ipotesi di assunzione in Italia. Dopo un paio d'anni a cavallo tra Olanda e bel paese, Gianluca ottiene l'occasione della vita, la nomina ad amministratore delegato di tutta l'area sudamericana. Dal marzo dello scorso anno vive in Brasile, da dove osserva l'Italia sperando di tornarci un giorno, ma solo a patto di rientrare in un paese più moderno basato su regole nuove. E ci raggiunge ora in linea Enrico Pedretti, direttore marketing di Manager Italia, l'organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del terziario. Buon pomeriggio. Buongiorno. Enrico, allora, quali riflessioni sulla storia di Gianluca? Com'è che questo paese allontana i suoi manager più giovani dal profilo internazionale? La storia di Gianluca ci racconta di un giovane che ha voluto scommettere su se stesso e che ha trovato dei contesti, degli stati, delle aziende e delle persone che hanno scommesso su di lui. Queste sono due cose che da noi capitano molto di rado. La metà dei manager italiani non è laureata. Nel 1990, dati Manager Italia, l'età media dell'elite era di 51 anni, 15 anni dopo era salita a 62 anni. Sono giovani il 6,9% dei dirigenti, il 12,3% dei quadri, il 15% degli imprenditori, il 22% dei professionisti. Anziana e priva di educazione qualificata. L'attuale classe di dirigente sta forse un po' indebitamente occupando posti che dovrebbero essere presi da giovani col profilo di Gianluca? Sicuramente noi abbiamo un'età media dei nostri dirigenti che è un po' più alta, non drammaticamente più alta di quello che avviene all'estero, ma soprattutto c'è che sono pochi i giovani che entrano. Noi abbiamo già pochi manager, sono lo 0,9% sui dipendenti rispetto al 3% della Francia e della Germania e al 6% degli UK, ma soprattutto sono pochi i giovani che entrano. Questo secondo me è dato da due semplici motivi. Noi abbiamo un sistema industriale che è fatto da pochissime grandi e medie aziende e da tantissime PMI o aziende ancora più piccole che nascono, crescono e prosperano con l'imprenditore o con i familiari dell'imprenditore. Allora è chiaro che per un giovane che vuole entrare in questo meccanismo è difficilissimo andare a trovare quei posti che Gianluca ha invece trovato in un contesto dove ci sono delle aziende sicuramente più grandi e che si mettono molto più in gioco delle nostre imprese familiari. E tutto questo contesto non aiuta neppure l'attrazione di manager dall'estero. Questo penso che vada di pari passo sul fatto che noi diciamo sempre che i nostri giovani fuggono all'estero, ma dati seri ci dicono che fuggono all'estero nella stessa percentuale di quello che fanno i giovani francesi. Così il guaio è che noi non siamo invece in grado di attrarre giovani che dall'estero vengano qua. Sicuramente l'Italia non è un posto dove si sviluppano i business più nuovi e sicuramente non è un contesto che favorisce quella crescita, quello sviluppo di carriera, ma non solo, del quale stiamo parlando oggi. Però quando poi i nostri giovani manager vanno all'estero o entrano in un'azienda estera, ecco che vanno alla grande, sanno fare un'ottima strada. Sono bravi, infatti, sono bravi. Passiamo alla fase propositiva, Enrico. Come Manager Italia, cosa state facendo per cercare di modificare lo status quo? Primo, fare in modo che in Italia si capisca che c'è bisogno di più manager e di giovani manager. Seconda cosa, stiamo cercando di fare delle iniziative a favore dei giovani. L'altra cosa che abbiamo fatto è quella di mettere nel contratto dirigenti del terziario una figura che si chiama dirigente di prima nomina, che fa sì che ci possano essere per quei giovani fino a 39 anni al massimo e che vengono nominati dirigenti in azienda uno sgravio per i primi 3 anni su quelle che sono le contribuzioni alla parte previdenziale e di assistenza sanitaria. Grazie Enrico Pedretti, direttore marketing di Manager Italia. E per Gianluca Pettiti, domanda finale di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Gli consiglierei di seguire l'istinto e la passione, innanzitutto pensando all'esperienza da expatriate come un investimento eccezionale ma estremamente dispendioso in termini di energie. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi ultima puntata della nostra lunga inchiesta sui programmi regionali che puntano al rientro dei cervelli o a trattenerli in regione. Chiudiamo con una puntata sulla Sicilia, la regione che nell'ultima decade ha visto emigrare più under 40. Alessandra Russo, dirigente generale del Dipartimento Lavoro della regione, ci illustra il progetto Mobilità Talenti. Questo è un progetto che è finanziato dalla regione siciliana e ha come scopo di garantire ragazzi che si laureano nella nostra regione e garantire loro la possibilità attraverso delle borse di studio di acquisire esperienze ma di ritornare nella nostra terra. Sono appunto delle borse di studio che consentono loro di acquisire delle esperienze e maggiori competenze. Voi come Dipartimento Lavoro cosa state facendo nel concreto per evitarne l'espatrio o comunque cercare di riattrarli una volta che sono andati via? Abbiamo realizzato con dei progetti finanziati nel bilancio regionale degli accordi con le università straniere che consentono a questi giovani laureati ricercatori di poter riacquistare i contatti con la Sicilia per un eventuale ritorno all'interno delle università siciliane. Funziona? Ci sono già dei numeri di ritorno? Sono esperienze che si vanno realizzate, diciamo che ha una grande attenzione, soprattutto perché oltre a riportare cervelli siciliani in Sicilia, porta anche cervelli degli altri paesi nella nostra terra. E com'è stata la reazione delle università siciliane? Cioè, stanno chiamando questi professionisti? Assolutamente, loro sono aperti a questi dialoghi, perché proprio quando si parla di ricerca, il confronto con altre realtà è molto importante per la crescita culturale. Quali misure invece state mettendo in opera per evitare l'espatrio, comunque l'uscita di professionisti che magari vorrebbero investire di più nella loro terra? La regione siciliana da questo punto di vista sta mettendo in campo diversi strumenti che vanno dagli incentivi all'impresa per gli sgravi fiscali e contributivi nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, e abbiamo già realizzato con un bando che è partito a gennaio di quest'anno oltre 400 assunzioni fatte. Poi stiamo implementando vari strumenti di politica del lavoro, progetti ministeriali. Per maggiori informazioni potete cliccare su pti.regione.sicilia.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.